in primo piano. Europa divisa sul patto, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il governatore Draghi, gli stati avanzati sono ancora fragili, apertura dunque sulla stabilità finanziaria europea. C'è chi sceglie invece la politica, domani il discorso di Berlusconi alla Camera. Berlusconi, un voto sul governo per il Corriere. Berlusconi, Fini, l'ultima sfida per Repubblica. Anche per La Stampa, un voto sul mio discorso. Mentre la frase di Bossi, Bossi insulta Roma e bufera, è l'apertura comprensibilmente del Messaggero. Il Fatto Quotidiano, porci l'insulto di Bossi e Berlusconi pretende la resa di Fini. Ma io, come di consueto, sapete, in questo inizio di rassegna stampa voglio iniziare da qualcosa di un po' più frizzante. E allora, voglio iniziare da Lele Mora. Trovate su tutti i giornali Lele Mora che ha confessato: Corona, Fabrizio Corona, era il mio amante. Dalle indagini della procura milanese su Vallettopoli spuntano dichiarazioni del manager dei VIP, l'ex mentore del re dei paparazzi. Ebbene sì, era il mio amante e la sua ex moglie Nina Moric ci aveva anche beccato. Per mantenere la relazione con Fabrizio Corona ho sborsato almeno 2 milioni. Ovunque, trovate sui giornali, tanto che in terza pagina dell'Unità, staino la consueta vignetta, Lele Mora racconta di una sua relazione con Fabrizio Corona. Parli ancora di politica o sei passato al culturale? E allora oggi su questo si produce Massimo Gramellini nel suo Buongiorno sulla Stampa. Macio micio. Voglio iniziare con questa lettura. Una capsula di buon umore in mezzo a tanta pesantezza. Il James Dean della Mutua, Fabrizio Maria Corona in Belen, ha avuto una relazione col diversamente longilineo Lele Mora, il cosiddetto manager dei cosiddetti teledivi, che amava farsi fotografare in pose da odalisca fra valletti nerboruti. Adesso sappiamo che uno di quei bronzi era lui, il Fabrizio Maria. Lo ha rivelato proprio Mora ai magistrati, che indagano su un giro di fatture false, spiegando di aver speso per l'amante uno sproposito in auto, appartamenti, altri ammennicoli rigorosamente esentasse. Dov'è il buon umore in una storia così triste, direte voi? Ma nella vendetta dell'immagine, l'unica dea che questi eroi del luccicante nulla siano disposti a onorare. Corona ha costruito il suo mito presso i poveri di spirito, sbandierando dalle copertine dei rotocalchi la sua mascolinità maledetta e la contabilità delle performance erotiche con la ricarica telefonica Belen, 6 giorni la settimana, ovviamente, perché quelli al suo livello, il settimo, si riposano sempre. Finché si scopre l'altarino, che un mio amico gay aveva sospettato da tempo, infatti non la smette più di ridere. Corona come il predicatore moralista con il conto in banca alle isole Cayman, o come l'estremista vegetariano sorpreso ad azzannare un hamburger da McDonald's. Dice il saggio, chi ostenta la sua virilità nasconde una doppia verità. E se non vi piace la rima, proviamo con l'assonanza. In fondo al ruggito del macio si può udire il miagolio di un micio. E beh, macio micio, ma d'altronde l'ironia si spreca su tutti i giornali, o meglio l'ironia, insomma, come dire, Lele Mora che confessa, Corona era il mio amante, Lele Mora, i 2 milioni a Corona, un regalo, eravamo amanti, anche un'intera pagina su Repubblica, sul Giornale, su Libero, sul Corriere, la trovate ovunque, così come troverete, dovete un po' spulciare invece in realtà nei giornali, una nuova vicenda legale che coinvolge Sgarbi. Ieri abbiamo parlato della sua vertenza legale, la sua vicenda in cui insomma, i suoi avvocati si sono prodotti in una straordinaria difesa che ieri Gian Antonio Stella ha immortalato sul Corriere della Sera per cercare di difendere Vittorio Sgarbi, che aveva dato del pezzo di merda tutto intero a Marco Travaglio. Ebbene, oggi Sgarbi ancora, lo troviamo su Libero a pagina 11, Sgarbi ha querelato Beppe Grillo. Ne abbiamo parlato ieri di Beppe Grillo, il suo slogan l'abbiamo fatto sentire, noi non siamo né a sinistra né a destra ma in alto. Ebbene, Grillo è un ladro, così ha affermato Sgarbi, non posso accettare che una mia formula politica coniata 15 anni fa, cioè questa, non siamo né a sinistra né a destra ma in alto, venga usata da un bulletto di periferia che peraltro in Porsche, mentre io facevo politica, tentava di corteggiare mia sorella. insomma, la vicenda diventa anche strettamente personale. Siamo di fronte alla penosa falsificazione di un falsario provinciale che continua a ripetere senza citarne la fonte il motto del mio movimento politico. Sgarbi dunque ha chiesto a Beppe Grillo 10 milioni di euro. 10 milioni di euro per questo slogan che dice Sgarbi è mio. E dice Sgarbi li userò per coniare il movimento 7 stelle. Così, per fare il verso un po' al 5 stelle di Beppe Grillo. Vabbè, dopo aver parlato un po' di Lele Mora e Fabrizio Corona, la politica. Domani Berlusconi è atteso al discorso alla Camera, alle 11 sarà il discorso, ci informa il Sole 24 Ore. Berlusconi, voto sul mio discorso. Riccardo Ferrazza ha proprio sul Sole 24 Ore, a pagina 17, spiega qual è la situazione. Un voto per andare avanti, la richiesta che ha fatto Silvio Berlusconi in vista dell'appuntamento di domani. Lo ha fatto come? Berlusconi ieri è intervenuto, a dire la verità, all'iniziativa di Don Pierino Gelmini con una telefonata. Vedete anche voi qual è la situazione in questi giorni, ha detto Berlusconi, ci troviamo davanti a ostacoli importanti assolutamente da superare nell'interesse di tutti. Ed ecco la frase, siamo alle prese con un documento che dovrà ottenere il voto della maggioranza del Parlamento per poter andare avanti. Dunque pare esclusa la questione della fiducia, probabile invece la votazione su un ordine del giorno. Certo, si attende di capire se ci saranno i cosiddetti 316 voti. Il clima qual è? È ovviamente di grande attesa, di ultime 24 ore di discussioni politiche, di cercare di capire chi voterà sì, chi voterà no, di cercare di capire come si orienteranno i gruppi. C'è anche una tensione abbastanza evidente all'interno del gruppo dei Finiani di Futuro e Libertà, tanto che addirittura Libero titola troppa libertà e poco futuro, il futuro e libertà è destinato a spaccarsi, ma certo questa è una visione di parte, ma che ci sia una tensione abbastanza certificata anche dal fatto che ieri quattro esponenti di Futuro e Libertà, cioè dei Finiani, abbiano fatto un comunicato per prendere un po' le distanze da chi? Da Italo Bocchino e da Fabio Granata, che sono considerati i falchi. Ed eccoli qui, i moderati Finiani, a pagina 2 di Repubblica, una nota di Menia, Baldassarri, Viespoli e Moffa per criticare la richiesta fatta dai vertici, da Italo Bocchino, accusato da qualcuno di avere una sorta di debordamento mediatico nelle varie interviste. Certo, il Corriere della Sera tiene da alcuni giorni la cosiddetta lista e la cosiddetta conta dei possibili voti. Abbiamo detto che 316 è quel voto che viene considerato un numero di voti alla Camera che può dare un'autonomia alla maggioranza indipendentemente da come voteranno i Finiani. Secondo Roberto Zuccolini, a pagina 5 del Corriere della Sera, la cabala della Camera al momento profetizza 307 deputati sicuri a favore di Berlusconi, 308 se si considera il tentatissimo Massimo Calearo dell'API, cioè Alleanza per l'Italia, 311 se si dovessero aggiungere altri tre dissidenti dell'UDC, 314 se si dovessero convincere i tre liberaldemocratici, ma non ancora i 316 voluti dal Cavaliere. A proposito di Massimo Calearo, che viene citato appunto dal Corriere come possibile, sì, viene intervistato da Antonello Caporale, che quotidianamente da alcuni giorni su Repubblica intervista i deputati, così che si stanno muovendo in quel limbo in cui non si capisce bene da che parte stiano per quel che riguarda questo voto. Massimo Calearo, che è stato eletto nel 2008 nel Partito Democratico, ora si trova appunto in Alleanza per l'Italia. Ho il sale in zucca, saprei fare il ministro. Così Massimo Calearo, intervistato da Antonello Caporale, esordisce così: venduto. E questa è solo una delle gentilezze che il computer deposita quotidianamente nelle mie mail, un ricordo degli elettori che hanno votato nel Partito Democratico, oggi lo ritrovano sul punto di dire sì al governo Berlusconi. Ma sì, non l'ho detto e non sono certo di dirlo. Prima voglio leggere il discorso, conoscere le aperture, così dice Calearo. Parliamoci chiaro poi, non esiste l'ombra dell'opposizione in Italia, non esiste l'ombra di un'alternativa. Se facciamo cadere Berlusconi c'è il buio fitto. E quindi lei col suo sì a Berlusconi lavora per l'alternativa a Berlusconi. Il mio sì concede tempo a coloro che devono organizzare un'idea di governo differente da questo. Ma io ho il sale in zucca e noto il deserto politico e di idee. A parte la Lega, cosa c'è? Cosa c'è? Me lo dica lei. Così dice Massimo Calearo, che poi conclude: domani mi metto ben bene tranquillo e ascolto e poi decido. Ma nella stessa pagina, pagina 4, Repubblica oggi fa un'inchiesta con Carmelo Lo Papa. Certo, l'unica notizia, diciamo, davvero nuova che farà parlare sicuramente è questa. Ecco il contratto della compravendita. Peones ingaggiati con 10.000 euro. È Carmelo Lo Papa che lo firma. Di cosa si tratta? Beh, sapete che si è parlato molto di mercato, con una parola anche spregiativa, dei deputati, facendo il verso al calciomercato, proprio per cercare di acquisire i famosi 316 voti in questi giorni. Ebbene, Carmelo Lo Papa di Repubblica dice: ci sono accordi e garanzie e c'è la dimostrazione di un paio di contratti, di cui Repubblica addirittura contratti di lavoro, un paio di contratti di cui Repubblica è venuta in possesso, del metodo utilizzato, in questo caso però si riferisce al 2006, cioè quando c'era Prodi che poi cadde al governo, che secondo Repubblica è la dimostrazione lampante di come Berlusconi, o comunque la maggioranza, allora nel 2006 sia riuscita a convincere due deputati con un vero e proprio contratto di lavoro a passare dall'altra parte. Si tratta di Marco Pottino e Albertino Gabana. Uno era deputato, l'altro era senatore. Entrambi erano della Lega. Dopo, però, erano usciti, erano andati un anno nel gruppo misto e vengono convertiti a fine 2007, con le virgolette convertiti, al credo berlusconiano. Come sarebbero stati convertiti, con quale contropartita? Ebbene, questa è la ricostruzione di Repubblica. Vi ricandidiamo nel 2008, ma facciamo in modo che voi non veniate eletti, ripeto, non veniate eletti, ma scatta una rete di protezione, vi diamo un contratto, e sono questi due contratti che Repubblica produce a presunta prova, due contratti di consulenza parlamentare per il quale guadagnerete 120.000 euro all'anno, 10.000 e 43 euro al mese, esatto lo stesso stipendio che avete da parlamentari, cioè votate per noi, passate per noi, vi ricandidiamo in posizioni che però non vi faranno rieleggere, ma in cambio per la vostra fedeltà vi diamo due contratti di consulenza che vi garantiscono lo stesso tenore di vita dello stipendio di parlamentare. Questa è la ricostruzione di Repubblica. Oggi questi due signori hanno due contratti di lavoro a progetto con il gruppo del PDL di Montecitorio in persona del suo presidente Fabrizio Cicchitto, con tanto di firma in calce. Questi sono i due contratti di lavoro di consulenza che sono prodotti, non risultano nei nostri elenchi, dicono alla Camera. Li contattiamo, dice Repubblica, confermano di avere quel rapporto di consulenza ma negano la compravendita. Non siamo stati affatto comprati, provenivamo già dal centrodestra. Comunque farà discutere certamente. Ecco il contratto della compravendita pubblicato da Repubblica, riferito a due ex parlamentari della scorsa legislatura. Stefano Folli per il secondo giorno consecutivo fa un editoriale molto duro in prima pagina del Sole 24 Ore, alla vista, proprio in vista del discorso di Berlusconi alla Camera. Dopo una lunga estate in cui la politica italiana ha dato il peggio di sé, scrive Folli, e giunti alla vigilia del fatidico discorso del Presidente del Consiglio alla Camera, i dubbi superano le certezze. Di sicuro non basterà un intervento di alto profilo, ricco di promesse virtuose, per far dimenticare le ferite della maggioranza e convincere gli italiani che il governo si è rimesso al lavoro. Questa certezza non c'è, perché le lacerazioni interne alla coalizione sono tutt'altro che rimarginate. Al contrario, qualcuno sembra già in campagna elettorale, come si è visto ieri quando Umberto Bossi ha insultato i romani. Una provocazione inutile, tipica di chi non si cura troppo di creare difficoltà ai suoi alleati e pensa in modo esclusivo a raccogliere consensi nelle valli del nord. Ebbene sì, È proprio questo anche il tema del nostro sondaggio. Che ti ha combinato Umberto Bossi? Bisogna partire dalla Padania e dal Messaggero, la Padania. Come possono i padani amare Roma? Oggi titola con Asterix, Asterix e Obelix. Di la verità non ha detto sono pazzi questi romani, ma sono porci questi romani. Come fanno i padani ad amare il palazzo? La Padania elenca i motivi per cui non bisognerebbe amare Roma, l'Italia che ha delocalizzato a scapito di Malpensa, la Borsa o Piazza Affari che è a Milano e la Consob, si chiede la Padania, a Roma. E poi, senza scordare la candidatura del Veneto che per le Olimpiadi del 2020, chi l'ha sconfitta? Roma ladrona, tra parentesi. Alemanno, basta, intervenga Berlusconi. In prima pagina del Messaggero, il Messaggero comprensibilmente, insomma, quotidiano molto radicato a Roma, Bossi insulta Roma e bufera. C'è anche un editoriale di prima pagina firmato Marult dal titolo Senilità. E proprio questo conclude così questo editoriale, poche righe, molto molto al vetriolo. L'ultima di una serie di esternazioni di Bossi di carattere razzista, non compatibile con lo spirito costituzionale, a meno che non si voglia considerarla, data l'estrema ripetitività, la manifestazione di una maniacalità senile. Così attacca il Messaggero. Certo, da ieri la politica è impazzita, con commenti oggi in prima pagina ovunque, su questa sparata di Bossi, la migliore sicuramente di Francesco Totti. Venga a dirlo in Curva Sud o al Colosseo, se visto che lo stimo per il coraggio. Ma anche Vauro, in prima pagina del Manifesto, la sua vignetta sono i tre porcellini con le salopette tipiche e la sigla SPQR, meglio porci che leghisti. Questo Vauro. E La Russa fa un'intervista, capite? C'è la politica, siamo a un ministro della difesa che deve fare una intervista a Repubblica per parlare della frase di Bossi, sono porci questi romani. Uso una metafora per dire ciò che penso di Bossi, dice La Russa. Le sue dichiarazioni sono come la musica sparata al massimo. Quando una persona normale entra in discoteca sente solo il rumore, poi quando abbassi il volume capisci il senso. Quella sui romani, pur essendo una frase inaccettabile, cela una pura e semplice propaganda destinata a tenere tutti insieme. Serve a bilanciare il comportamento responsabile della Lega quando si tratta di temi politici concreti, come Roma Capitale, ed è propaganda rivolta da alcuni elettori leghisti per ammortizzare la politica responsabile del Carroccio sui temi come celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità. Insomma, la solita, secondo La Russa, lega di lotta e di governo. Voi pensavate che sarebbe finita la vicenda e la inchiesta del giornale Libero sulla casa di Monte Carlo? Ebbene no, trovata la cucina dei Fini, ma guarda, è a Monte Carlo. Questo è il titolo di apertura del giornale, ma anche Libero. La casa non è chiusa, i troppi dubbi sulla versione di Fini, e ci si concentra su cosa? Su questa foto che ieri peraltro a Matrix è stata mostrata dalla cronista Ilaria Cavo, che è andata a Monte Carlo, e Vittorio Feltri, eccola qua, dov'è la famosa cucina di cui noi parlavamo al giornale qualche tempo fa? È stata fotografata nell'ormai famoso appartamento di Monte Carlo abitato da Giancarlo Tugliani. Ilaria Cavo, inviata di Matrix, il programma di Canale 5, condotto da Alessio Vinci, si è recata nel Principato, a forza di indagare è riuscita a venire in possesso della fotografia che campeggia in questa prima pagina del giornale. Una foto che casualmente, dice il giornale, è identica a quella comprata da Fini e compagna e si trova nella casa di Monte Carlo. Trovata la cucina dei Fini, è a Monte Carlo, anche a pagina 2-3 la foto con tutte le planimetrie della famosa cucina Scavolini che è stata comprata e che, dice il giornale, guardate, è identica e sarà un caso a quella che è stata trovata a Monte Carlo. Vabbè, continua insomma questa vicenda. Io mi concentrerei su altro, come detto l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alla stabilità finanziaria, perché ieri Mario Draghi, in qualità di presidente del Financial Stability Board, ha parlato paesi avanzati ancora vulnerabili, ha lanciato questo allarme sul terreno delle regole, le regole bancarie. Ovviamente abbiamo fatto progressi sostanziali, Basilea 3 non frena lo sviluppo, ma dobbiamo rimanere vigilanti perché i sistemi finanziari delle economie avanzate restano vulnerabili e questo, questa vulnerabilità, insomma, è un po' l'allarme che ha lanciato Draghi e sulla quale oggi il Sole 24 Ore apre con anche il resoconto di Rossella Bocciarelli da Parigi. Un altro tema ovviamente economico che dà spunto ad alcuni giornali come l'Unità di aprirci, ma anche il Manifesto lo mette in prima pagina, è il rapporto della CGIL che è stato reso noto ieri, secondo il quale negli ultimi 10 anni, dal 2000 al 2010, il valore dei salari è diminuito di oltre 5.000 euro. Sulla prima pagina dell'Unità c'è proprio questa cifra a caratteri cubitali: negli ultimi 10 anni ognuno di noi ha perso 5.453 euro. C'è anche un'intervista all'economista Giacomo Vaciago che dice: in questi anni abbiamo fatto, intervistato da Laura Matteucci sull'Unità a pagina 13, in questi anni, dice Vaciago, abbiamo fatto l'elenco dei capri espiatori, dall'euro alla recessione, che in questo caso, trattandosi di uno studio relativo all'ultimo decennio, non può certo essere la causa principale. Credo che invece il problema sia lo sviluppo, che nessun governo si è mai posto come priorità. Adesso Emma Marcegaglia esorta ad una politica di sviluppo, ma a chi si rivolge? Ad un governo che pensa tutt'altro, che ormai da 6 mesi allo sviluppo non ha più nemmeno un ministro? Attenzione poi, l'idea di sviluppo implica cambiamento, innovazione, gli unici elementi che consentono un aumento del reddito, ma che in genere non sono molto apprezzati dagli imprenditori. Vaciago poi parla anche della vicenda Fiat. Marchionne dice: investimenti a fronte di maggior lavoro. Senza entrare nel merito, si tratta di un patto tra lui e i suoi operai. Qui è l'intero paese che non funziona e che francamente non farei gestire a Marchionne. Questo Vaciago. A proposito di Marchionne, ieri Marchionne era il più atteso all'assemblea annuale dei produttori dell'Anfia, e che Carmine Fotina spiega a pagina 6 del Sole 24 Ore, ha preso la parola e ha parlato anche di un'apertura nei confronti della CGIL, nel senso ha salutato, o meglio, con segnali positivi, la possibile apertura manifestata dal leader della CGIL Epifani, che ha usato accenti nuovi e che hanno improvvisamente riportato in auge la parola dialogo. Un'apertura positiva, ha detto Marchionne, ripartire dal confronto, un impegno che veda coinvolte tutte le parti sociali, è un segnale di grande speranza per il paese. Poi ha ribadito però la mancanza di condizioni di competitività minime, specialmente nel mezzogiorno, un livello di investimenti esteri che è il più basso d'Europa, il numero crescente di imprese che chiude o abbandona l'Italia. Insomma, è Fiat la svolta, questo è il titolo Marchionne di quello che ha detto. A pagina 6 del Sole 24 Ore, certo, il tema delle relazioni industriali è ancora in primo piano. Ma io voglio chiudere pochi secondi per dire che Santoro ha fatto l'ultima sua uscita, cioè ha pubblicato il suo CUD, guadagna 662.000 euro, dicendo: lo facciano tutti i dirigenti Rai. Ma attenzione, perché il Messaggero anticipa una notizia, ho trovato solo sul Messaggero, domani si riunisce il CDA, o meglio forse oggi, della Rai. E secondo il Messaggero sono in arrivo 2 settimane di stop per Santoro, come un cartellino rosso, cioè una squalifica. Dopo aver detto il vaffanbicchiere al direttore generale della Rai Masi, 2 settimane di stop per Santoro. Questa sarebbe la proposta che porterà il direttore generale della Rai in consiglio di amministrazione. 2 giornate di squalifica, come nel calcio. Ora il GR.